Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, sono le 13:33 minuti e 34 secondi, Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana. Si parla di reportage, di inchieste, di casi di nera, di giudiziaria, di curiosità, di costume, di spettacolo. Da lunedì 21 febbraio Italia in controluce, il programma sulla cronaca italiana di Radio 24 cambia pelle ma non la sua carne. Dopo un anno e un mese di trasmissione avevamo voglia di migliorare e di cambiare. L'edizione delle 6:30 sarà maggiormente incentrata sul reportage, sull'inchiesta di cronaca, ma anche sugli incontri con personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo, della cultura, che commenteranno fatti di strettissima attualità di cronaca. Nell'edizione che state ascoltando, quella delle 13:30, sarà invece orientata verso i fatti di cronaca del giorno, il racconto in diretta di quello che avviene in Italia dai nostri inviati, dai nostri redattori, dai corrispondenti sparsi sul territorio. Nel frattempo ci sarà anche una maggiore interazione con tutte le nuove tecnologie. Ad esempio il blog del programma, che trovate su www.radio24.it, sarà anche un contenitore di testi su inchieste molto spesso inedite che non necessariamente troveranno spazio dentro in questo programma radiofonico. Ad esempio oggi ne trovate una inedita sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fausto e Iaio, un vecchio omicidio del 1978 a Milano. Abbiamo creato anche un gruppo su Facebook, Radio 24 Italia in controluce, dove i quasi 1900 iscritti hanno la possibilità di darci pareri, contributi, suggerimenti, notizie da sviluppare. Poi su Twitter alla voce in controluce potete essere aggiornati sui temi della giornata. Insomma, Italia in controluce è un programma che viene realizzato da tutta la redazione di Radio 24 e che compie da lunedì un ulteriore sforzo importante per informarvi in modo puntuale e in modo efficace. Italia in controluce. Come ogni venerdì do la linea subito a Piera Ceci, perché c'è Scuola in controluce, la nostra finestra sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Ufficialmente sono oltre 200, secondo il sito Controriforma Docenti Arrabbiati, ma un censimento non è facile. Stiamo parlando di quello che è stato definito lo sciopero delle gite scolastiche. Cosa è successo? È successo che molti consigli d'istituto hanno deciso di bloccare i viaggi di istruzione, chi tutti, chi solo quelli all'estero, chi solo quelli di più giorni. Gli insegnanti, infatti, già sul piede di guerra, come sapete, per tutti i tagli che stanno subendo i comparti della scuola pubblica, non hanno gradito il taglio della diaria per i prof che accompagnano i ragazzi. Si tratta di 80 euro al giorno, finiti anche questi sotto la scure del ministro Gelmini. Luisa Limoni, insegnante di liceo a Torino e rappresentante sindacale CGIL. La forma di protesta è nota come blocco, diciamo così, delle uscite di istruzione, delle gite, non è solo correlata, anche, è correlata certamente all'abolizione della diaria, ma è una forma di protesta che molte scuole hanno assunto per denunciare cosa sta accadendo in seguito ai tagli dell'organico, in seguito al blocco dei contratti. Diciamo che uno degli strumenti che è stato utilizzato, e devo dire anche con una certa sofferenza da parte dei docenti, perché si è consapevoli anche della significatività di questi percorsi per i ragazzi, anche poi sul piano della loro maturazione emotiva. È uno strumento che è stato utilizzato che può avere risonanza, perché altrimenti è difficile farsi sentire. Non c'era un altro modo, un'altra forma di protesta da mettere in atto? Perché poi certamente, il rischio non è anche quello da parte dei docenti di spezzare un filo di solidarietà con le famiglie e con gli studenti? Certamente l'effetto è un effetto indesiderato e certo pesante. Senz'altro altre forme di protesta, a mio parere, sono più opportune, pensando però alla ricaduta sulle famiglie e sui ragazzi. Non tutti i prof dunque, anche i sindacati confederali, CGL compresa, sono d'accordo con questa forma di protesta. Troppo penalizzati gli studenti e così l'offerta della scuola pubblica viene a scadere ulteriormente. Meglio altre forme di protesta, dicono. A piangere però non sono solo gli studenti, per i quali la gita resta un momento importante nella didattica e, diciamocelo, soprattutto un momento di grandissimo divertimento, un momento spesso che resta impresso nella memoria di una vita. A piangere sono anche le strutture turistiche che anche di gite scolastiche vivono. Pensiamo a musei, alberghi. Marilena Zani, titolare di un'agenzia di viaggi che opera sulla Lombardia, ha un giro d'affari di 1,5 milioni di euro nel comparto scuola e per correre ai ripari ha anche proposto di pagare la diaria ai prof purché partissero. Dai calcoli che avevo fatto 20 giorni fa circa, il calo era sul 50% e penso che la situazione non sia migliorata di molto, cioè sopravvivono le scuole private e una minima parte delle scuole pubbliche, soprattutto però le scuole inferiori. E a questo punto vi è anche venuta in mente un'idea che però insomma è stata accolta un po' così così? La nostra idea era partita ad ottobre, vediamo di rinunciare al nostro, diciamo, nostro guadagno e proponiamo una diaria, sopperiamo noi quello che potrebbe essere, diciamo, l'esborso da parte del pubblico. Come la cosa non ha avuto però grandi risultati, anzi è stata presa un pochettino in tono polemico soprattutto dagli insegnanti che molti sostengono che comunque deve essere compito dello Stato intervenire comunque sempre e non può sopperire un'istituzione privata, comunque un'agenzia privata non può sopperire quello che deve essere compito dello Stato. E a questo punto che cosa fate? State fronteggiando la crisi come potete? Io ho scritto anche al Ministro del Turismo, soprattutto sollevando un pochettino il problema a livello dell'Italia in generale, perché non stiamo parlando di agenzie viaggio, ma stiamo parlando di una categoria economica, credo, abbastanza importante. Abbiamo sentito come gli operatori del settore si siano appellati al ministro del turismo Brambilla perché intervenga in qualche modo a sostegno del settore. Questa mattina, proprio poco fa, le parole della Brambilla dopo il Consiglio dei Ministri. Sentiamola al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Con il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Istruzione stanno definendo le ultime linee di un progetto che ci vedrà impegnati proprio perché le gite scolastiche siano anche un'occasione per i nostri giovani per conoscere meglio un paese dove vivono e che troppo spesso vede una realtà di giovani, anche teenager, diciottenni che magari hanno visto mezza Europa e poi non sono scesi sotto Firenze. Ecco. Anche gli operatori del settore comunque hanno protestato, quindi concretamente farete qualcosa? No, noi abbiamo già, come le stavo dicendo, noi abbiamo già predisposto e definito, e credo lo presenteremo nel giro di una settimana, un progetto comune, Ministero del Turismo e Ministero dell'Istruzione, perché le gite scolastiche non solo sono importanti, ma possono anche rappresentare un'occasione per conoscere meglio l'Italia e naturalmente per il settore del turismo e per le imprese che noi vogliamo sostenere un momento di lavoro anche al di fuori dell'alta stagione, per cui è già stato fatto, lo presenteremo credo nel giro di una settimana. Staremo a vedere di che provvedimenti stiamo parlando e se soddisferanno gli operatori del settore che già hanno visto diminuire il giro d'affari nell'anno scolastico 2009-2010 del 9% rispetto all'anno prima, come rivela l'osservatorio sul turismo scolastico del Touring Club presentato oggi in BIT. Complice la crisi economica, infatti i viaggi sono diventati più brevi, con qualche rinuncia alle mete estere perché più costose e con un occhio di riguardo al low cost. Senza poi contare la perdita di un'occasione davvero molto importante di crescita e di conoscenza per i nostri ragazzi, come ci racconta il presidente del Touring Club, Franco Iseppi. Queste cose che sembrano delle nicchie, in realtà sono strategicamente molto importanti perché l'idea che si affermi una certa cultura del viaggio presso questi qui tra i 13 e i 18 anni è decisamente una cosa importante per capire, diciamo, il futuro del turismo in questo paese, quindi il fatto di rinunciare a un viaggio non è una cosa così secondaria proprio rispetto al tipo di attesa che al tipo di funzione che il viaggio stesso svolge, insomma, per questi qua, che sono poi diciamo la domanda del futuro, ecco, non Cioè portarli in gita scolastica è qualcosa da farli insomma assaggiare affinché diventino anche dei viaggiatori nel futuro. Più consapevoli, e poi soprattutto credo che in realtà la gita scolastica sia un grosso momento sociale per loro, oltre che il piacere di vedere delle cose, di discutere delle cose, di insomma di immagazzinare, di metabolizzare altre cose. Penso che e di conoscere il nostro paese. Penso che comunque il viaggio rimanga, come diceva Montaigne, una specie di l'occasione per strofinare il proprio cervello con gli altri cervelli. E questo sì, in questo sì c'è una componente di tipo fortemente educativo, ecco. Grazie Piera Ceci per questo escurso su Scuola in Controluce. Trovate questa finestra di Italia in Controluce, vi ricordo, ogni venerdì alle 13.30 e ogni lunedì alle 6.30. Questa era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo la mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì 21 febbraio alle 6.30 su Radio 24.